Nella vasca tra gli ulivi ridono le rane. La betulla fruscia fresca sui lenzuoli increspati nel sonno. L'arsura di una vela ti accarezza. Alla finestra che hai tenuto aperta, l'aria luminosa tocca i panni. Filari lungo il roseto sfiorito si asciugano i germogli dei gerani. Le formiche camminano tranquille tra le zolle spaccate dal badile. Un uomo dal cancello guarda l'ombra dondolare, sciolto il tralcio d'edera. Ti è avvegliata nella notte contro la bestia che intorno a te si aggira, ha rivolto un solo sguardo e vinto, ha ricacciato quel randagio nero. Alla bañera, entre les oliveres, riuen les granotes. El bedoll mormola fresc sobre els llençols encrespats en el son. La cremor d'una vela t'acaricia. En la finestra que has tingut oberta, l'aire lluminós toca les teles en fila al llarg del roserà florit. S'aixuguen els brots de geranis. Les formigues caminen tranquil·les entre terrossos romputs per la pala. Un home des de la porta mira l'ombra oscil·lar. Desfet el sarment d'heura t'ha vetllat en la nit contra la bèstia que al voltant teu gira. Ha fet una sola ullada i vençut ha foragitat de nou aquell rodamont negre.